Vi confesserò di non essere abbastanza dentro nei misteri del diritto costituzionale e amministrativo per sapere se è vero che Francesco Rutelli, come ha sostenuto Berlusconi una decina di giorni fa, non può essere eletto nel prossimo Parlamento perché non ha provveduto a dimettersi da sindaco di Roma 6 mesi prima della data delle elezioni, come prescrive la legge. Credo di no, credo che non sia vero, perché, come hanno detto tanti, quella prescrizione non vale in caso di scioglimento anticipato delle Camere e sembra sicuro che in anticipo le Camere verranno sciolte. Ma visto che lo scioglimento in ogni caso non potrà che avvenire molto, ma molto a ridosso della scadenza naturale, penso anche che il buon Francesco avrebbe fatto molto meglio a dimettersi prima. È vero che aveva il problema del giubileo da finire, ma questo era appunto il problema suo, che avrebbe dovuto vagliare con la dovuta ponderatezza prima di prendere la decisione di candidarsi. Le prescrizioni di legge hanno sempre un carattere formale, ma a parte il fatto che le forme vanno rispettate, un buon politico dovrebbe sapere tener conto anche delle questioni di sostanza. E non è bello, non è bellissimo eludere una precisa norma di legge con quello che stringi è un cavillo. Delle dichiarazioni in merito di Berlusconi, comunque, mi è piaciuto in particolare un passaggio, quello in cui il Cavaliere ha dichiarato che, pur essendo più che convinto del fatto che il suo concorrente non ha alcun diritto di sedere alla Camera, tanto è vero che se vince da lui ha tutte le intenzioni di farlo cacciare con ignominia, più o meno come fece in analoghe circostanze Cicerone con Catilina, pur se convinto di tutto questo, non intende, tuttavia, utilizzare l'argomento in campagna elettorale perché è difficile da spiegare alla gente. Beh, ammetterete anche voi che questo non è bello. Che questo non è bello perché o uno è convinto dei propri argomenti e cerca di farli condividere agli altri, facile o difficile che sia, o non ci crede e allora farebbe meglio a lasciarli perdere. Crederci e non utilizzarli perché gli altri non li capirebbero significa soltanto supporre che i propri interlocutori altro non siano che una massa di deficienti, incapaci di afferrare un concetto neanche se glielo si spiega. Come concezione non esattamente democratica, ma tanto che i leader del popolo in tema di democrazia siano, come dire, un po' debolini, è una cosa che sapevamo già. Mi direte forse che il tema dell'ineleggibilità dell'ex sindaco di Roma o di chiunque altro non è tra quelli che appassionano le masse popolari. È vero, sembra proprio che in argomento i concittadini siano un po' sordi. Se dalla presunta ineleggibilità di Rutelli infatti proviamo a considerare quella di Berlusconi, che a prima vista si direbbe meglio fondata, perché ineleggibili sono anche i titolari di concessioni pubbliche, ci vuole altro per superare questo piccolo handicap che fa intestare le concessioni in questione a un proprio collaboratore, se consideriamo questo problema si scopre che anche questo argomento non gode di una grandissima popolarità. Lo stesso tema del conflitto di interessi, che pure ha una corposità ben maggiore, no? Visto che la maggioranza assoluta dei paesi civili basterebbe impedire che Silvio Nazionale diventi non che presidente del Consiglio e consigliere comunale, e non è percepito nella sua drammaticità. Dall'ultimo sondaggio in merito pubblicato dal Corriere della Sera il 26 febbraio scorso, risulta che al 39% degli interessati il problema è abbastanza indifferente. Che il 23 è convinto addirittura che avere molti interessi in privati sia un incentivo a governare meglio, che soltanto un modesto 38% ha delle preoccupazioni in senso opposto. Permettetemi, per una volta tanto, di non trarre conclusioni. Gli italiani sono un popolo realistico e sanno evidentemente che la legge non è uguale per tutti. Sanno in particolare che l'usorio pensava di bloccare i potenti in nome delle minuzie giuridiche, perché quelle servono da sempre soltanto per fregare i poveri cristi. Ma appunto per questo sarebbe stato molto meglio che chi è stato scelto per contrapporsi al potente per eccellenza avesse dimostrato per quelle minuzie un maggiore rispetto. Andare alle elezioni con i leader di entrambi gli schieramenti gravati per un motivo o per l'altro di un sospetto di ineleggibilità può essere anche divertente. Può essere un'esemplificazione del clima surreale che caratterizza la politica italiana, ma non è tutto sommato una cosa di cui ci si debba vantare.